fatto perché sono proprio convinto, ma davvero molto convinto, che la realtà dello Spirito Santo sia importantissima nella vita cristiana, eppure normalmente, come dice Papa Francesco qui, è il grande sconosciuto della nostra fede, no? E questo è davvero un guaio, perché poi giustamente mi sembra che sia molto importante quello che Duilio faceva rilevare, che abbiamo trasferito sulla Madonna, Donna straordinaria, e sulla grazia, le tipicità, diciamo così, dello Spirito Santo, no? Quindi davvero la relazione sua è stata per me molto molto illuminante. Inseriremo Dario nel sito sia l'audio che eventualmente, no, è lo scritto che lui ci manderà. E, niente. Riuscite a sentire? Sì, io qua sento. Franca. Allora, io ho una domanda, ma è un po' confusa, quindi cerco di aiutatemi magari a precisarla meglio. Dunque, negli ultimi tempi, Giovanni... Poi forse in modo che sentano... Giovanni leggeva e ci proponeva la lettura dei libri di Spong, che questo emerito vescovo episcopaliano americano, che propone una nuova visione, una nuova immagine di Dio in questo che chiamano post-teismo. Allora, volevo intanto capire meglio questa figura, questa riflessione sul post-teismo, e se in qualche modo in questa nuova visione, questa nuova immagine di un Dio che non è il Dio onnipotente, castigamati, eccetera, ma è un Dio amore e misericordia, lo spirito in qualche modo viene ricompreso in questa nuova visione. Non so se sono riuscita a dire. Sì. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece, se e quanto le istituzioni con le quali lo spirito interagisce lo sanno riconoscere. O la vogliono. Fine. Non ho altro da chiedere. Sì. Ne aggiungiamo una? Voleva forse lei aggiungere, perché... Sì, a proposito di questo dibattito, no, che c'è recentemente sul antiteismo, no? Anch'io sono curiosa perché ne ho sentito parlare, proviene, insomma, deve essere apparso su Avista, qualcosa del genere, proveniente dalla diocesi di Pinerolo, così, questa riflessione, questa, per cui si nega un po', per quel che ne ho capito, così, la necessità di Dio, ma si parla più di energia, di questa, tante volte forza, no? che anima il mondo intero, le cose, non solo le persone, eccetera. A me ha dato un po' l'impressione che si neghi una esperienza che Gesù invece ha portato avanti nella sua vita, cioè del Dio persona, no? E senza la quale, io devo dire la verità, mi sento un po' spiazzata, cioè ho bisogno di un incontro con, no, con una realtà umana che poi, grazie alla grazia, allo spirito, non so, qualcosa di più completo, di più, ecco, mi piace molto il termine vita, vivente, il Dio che in noi, il vivente che, perché pensiamo al risorto, al dopo umano, ecco, no, così. Comunque, a cui rivolgersi? Io sento ancora questa esigenza, no, di avere un rapporto, diciamo, con persona, ecco. E mi interessava così conoscere all'interno di questa no? Anche di questo discorso che abbiamo fatto stamattina sullo spirito, perché aggiungo anche questo, no? Fare un lavoro interiore di meditazione profonda, di contatto con lo spirito che in noi è una bellissima esperienza, è da fare secondo me, cioè è una cosa molto utile, ma bisogna fare anche attenzione a non rischiare di stare noi con noi stessi, perché poi finisce che facciamo un po' dire allo spirito quello che vogliamo. E mi è piaciuto questa dimensione, che magari siamo anche un po' così, no? Un po' ci ribelliamo, però vissuta con il suo senso, quello di mettersi in contatto, in comunicazione con la Chiesa tutta, mica solo a Vaticano o altro, no? Sto dicendo, perché così tu ti metti in un rapporto dialettico, cioè non te la canti solo da solo, ecco, ti metti in una discussione, no? E poi c'è sempre da imparare gli uni dagli altri. Noi siamo qui perché qualcuno ci ha trasmesso, se non ci fosse stata una qualche forma di Chiesa, no? Non avremmo incontrato la parola, non avremmo incontrato, ecco, della gente che ci ha orientati, Giorgis, eccetera. Certo, anch'io rimango delle volte un po' così, soprattutto quando è ora ai tempi delle elezioni del Papa, no? È lo Spirito Santo che ispira la nuova elezione dei Papi, quando sappiamo che c'è tutta una serie di, non giochi, ma di, no? Dinamiche molto umane, ecco. Quindi a volte sto Spirito Santo viene tirato da una parte e dall'altra, secondo di come. Bene. Allora comincio a interagire, non dico rispondere, perché sono due questioni enormi, quindi, ma provo a interagire, partendo proprio dalla questione del post-teismo o antiteismo. Effettivamente questo è un dibattito che è portato avanti, insomma, almeno da due o tre decenni all'interno del contesto teologico, anche cristiano. Io credo che, come dire, l'esigenza che viene espressa da un autore come Spong, per esempio, che lei citava, l'esigenza che viene espressa è un'esigenza autentica, reale. Cioè non possiamo più semplicemente limitarci a ripetere il teismo convenzionale, cioè quel modo di immaginare, di concettualizzare, di interpretare la realtà di Dio, che sostanzialmente è stata elaborata a partire dal secondo Medioevo e poi nell'epoca moderna, con le radici, ecco, nella teologia classica greca, no? Soprattutto di Aristotele. Ecco. Perché? Ma perché quell'immaginario di Dio è un immaginario che di per sé non è così compatibile, così rapportabile con il modo con cui la Bibbia, il libro biblico, ci racconta l'esperienza della realtà di Dio. No? Come dire, la cosa più vistosa è che questo teismo, appunto, medievale, moderno, è un teismo che considera la realtà di Dio come l'oggetto di una conoscenza razionale. Quindi, quando tu hai elaborato un concetto di Dio, ben rifinito, ben determinato, tu puoi dire di conoscere effettivamente Dio, no? Di essere effettivamente in rapporto con Dio. E in questa prospettiva manca completamente la dimensione della storia. Cioè, il fatto che è centrale invece nella Bibbia, no? Cioè, nella Bibbia è chiaro che tu ti incontri con Dio non immediatamente attraverso un ragionamento più o meno complesso, no, di tipo logico, razionale. Ti incontri con Dio attraverso degli avvenimenti e attraverso soprattutto la testimonianza di persone che, come dire, in qualche maniera lo incarnano o comunque lo attestano con la loro esperienza. Quindi questo è certamente uno dei motivi per cui il teismo classico, convenzionale, ha bisogno di essere ripensato. Infatti, appunto, altri autori, più che parlare di post-teismo, di antiteismo, parlano di anateismo, cioè un teismo di secondo livello. No? Che però non è ateismo. No, appunto, anateismo, che vuol dire appunto un teismo di secondo livello, no? una rilettura del teismo classico. A mio avviso, quello che deve essere mantenuto, anche perché è il guadagno della prospettiva biblica, no? Quello che deve essere mantenuto è il fatto che ciò che noi chiamiamo Dio, che poi adesso noi usiamo Dio come se fosse un nome proprio, no? Ma è interessante notare che tutti i termini che noi usiamo per riferirci alla realtà di Dio sono nati come metafore, sono nati come immagini. Ad esempio il termine Dio, Deus, Zeus, nella sua radice sanscrita ha il riferimento alla realtà della luce. Appunto, Zeus, il Deus, ha a che fare con la luce, cioè con qualcosa che ti illumina e che in qualche maniera ti permette di orientarti nel cammino del tuo rapporto con la realtà. No? E poi questo è diventato per noi una sorta di nome proprio, no? Dio. Ecco. Però è una metafora. Ecco, ti stavo dicendo, ciò che deve essere mantenuto, perché è un guadagno del monoteismo, e soprattutto del monoteismo biblico, è il carattere, chiamiamolo personale, chiamiamolo soggettuale, non so, chiamatelo come volete, di Dio. Cioè, Dio non è semplicemente un principio astratto, non è semplicemente una forza informe, ecco, un'energia impersonale. Almeno il Dio della Bibbia non è questa roba qui, no. Perché il Dio della Bibbia è appunto una realtà dotata di una soggettività che gli permette di entrare in relazione con la creatura umana, no? E come faccio a entrare in relazione con un'energia? Come faccio a entrare in relazione con un principio astratto, assoluto? La categoria centrale della scrittura è quella dell'alleanza. Il Dio biblico è un Dio che fa alleanza. E per fare alleanza ci vogliono due soggetti. Cioè ci vogliono appunto due realtà che siano dotate di consapevolezza, di intenzionalità, di libertà, di volontà. Altrimenti, appunto, come si potrebbe parlare di alleanza? Ora, ripeto, il guadagno del monoteismo è quello di immaginare comunque un Dio con cui tu ti puoi relazionare, perché è in se stesso persona. Cioè, come siamo noi. Ecco, ovviamente bisogna sempre tenere presente che quando noi parliamo o balbettiamo di Dio, non possiamo semplicemente cadere nel rischio che segnalava Feuerbach nell'Ottocento, cioè il rischio semplicemente di proiettare all'infinito ciò che è la nostra esperienza, come dire, umana, no? Perché altrimenti, certo, c'è il rischio di pensare, ad esempio, la conoscenza di Dio semplicemente come una conoscenza simile alla nostra, però infinita, cioè illimitata, o la potenza di Dio come una potenza simile alla nostra, ma anche in quel caso infinita, illimitata, e via discorrendo. Ora, questo certamente ti pone un rischio di proiettività, no? In Dio, di quelle che sono anche le ambivalenze del nostro modo di intendere la conoscenza, la volontà, la potenza, no? Quindi chiaramente questa attenzione critica rispetto ad un rischio di proiezione, questo si deve avere qualcosa di necessario, ecco, per poter parlare di Dio, come diceva Cirillo di Gerusalemme riferendosi allo Spirito, senza danno, ecco. Senza danno anzitutto per Dio, cioè per il modo con cui noi possiamo tentare di esprimere la sua realtà. Quindi, se quando si sente parlare di posteismo, di antiteismo, si intende dire di lasciar cadere anche questo aspetto della dimensione personale, soggettuale di Dio, ecco, io su questo devo dire che ho molte perplessità. Ho molte perplessità perché se Dio non è una realtà con cui io mi posso rapportare, con cui posso istituire una relazione appunto consapevole, libera, decisa, ecco, io mi chiedo che cosa me ne faccio, ecco, di un Dio che sia appunto una pura energia, una pura forza, una pura idea, ecco. Perché poi spesso queste posizioni di tipo posteistico, antiteistico, sono molto contrarie a qualunque nominazione di Dio, no? Cioè Dio non lo si può nominare perché appena lo nomini, diciamo, lo degradi a qualcosa di cui puoi disporre. Però io mi chiedo, i medievali e anche i moderni si riferivano a Dio chiamandolo l'essere supremo, l'essere. E i posteisti si rivolgono a Dio chiamandolo l'energia. Io non so bene che differenza ci sia, cioè certo l'essere non è l'energia, però sono due nominazioni, cioè sono due modi di nominare quella realtà, no? E perché in qualche modo la dobbiamo nominare. Ciò che noi non nominiamo è qualcosa di cui non possiamo avere nessun tipo di contatto, di conoscenza, di rapporto. Cioè. E allora, chiamarlo energia anziché essere, a me non sembra un grande guadagno, per la verità. No? E non a caso poi, in queste posizioni, molto spesso si va ad attingere nelle tradizioni orientali, inteso appunto la tradizione induistica, no? Oppure buddistica, che certamente immaginano una trascendenza tendenzialmente impersonale. No? Io però appunto rimango dell'idea che su questo punto il monoteismo fa un passo in avanti, perché il monoteismo appunto ha chiaro l'aspetto del carattere personale di Dio. Ecco. E su questo, ripeto, non è un guadagno retrocedere su questo. Ora, si tratta poi di fare ancora un ulteriore passaggio nel pensare un teismo rinnovato, un teismo. Infatti che a me il termine teismo non è che neppure che piaccia moltissimo, devo dire la verità. Cioè io non mi considero un teista, mi considero un credente in Dio, ecco. Ma la categoria di teismo non è una categoria che almeno io, ad esempio, utilizzi nel mio fare teologia, per la verità. Ecco. Però l'ulteriore passaggio è quello, se vogliamo, di ricomprendere il teismo alla luce del modo con cui la realtà di Dio mi raggiunge all'interno della scrittura ebraico-cristiana. Perché allora a questo livello io certamente devo continuare a supporre che se Dio è una realtà personale vuol dire allora che è una realtà capace di conoscere, capace di volere, capace di libertà. E quindi io non posso, come dire, non tenere conto di questi aspetti quando cerco di parlare di Dio, come diceva Jürgen Verbeek, sempre al limite del tacere. Ecco, quando noi parliamo di Dio dobbiamo sempre parlarne al limite del tacere, cioè riconoscendo che, appunto, come dice giustamente il prologo del Vangelo di Giovanni, Dio nessuno lo ha mai visto. E quindi nessuno può presumere di parlare di Dio immediatamente dal punto di vista di Dio. No, quindi c'è una complessità inevitabile. Ecco. Però se io mi confronto con la scrittura ebraico-cristiana e poi soprattutto se io mi confronto con il modo con cui nella vicenda di Gesù io trovo il riferimento alla realtà di Dio, allora non potrò più semplicemente limitarmi a proiettare in Dio, come dicevo prima, il mio modo umano antropologico di intendere la conoscenza, il volere, il potere, la libertà. Ecco, io dovrò passare attraverso la testimonianza centrale, come dicevamo stamattina, che Gesù mi dà di Dio. Dove appunto, certamente, il riferimento che Gesù fa a Dio è il riferimento ad una realtà personale a cui io mi posso rivolgere, con cui io posso stringere una relazione. Però per Gesù, diciamo, la prospettiva determinante per riuscire a cogliere in profondità la realtà di Dio è quella prospettiva che poi sia Paolo sia Giovanni riassumeranno in quel termine che è agape, no? Che ha a che fare comunque con la realtà dell'amore, con la realtà della dedizione, con la realtà della cura, ecco, con la realtà della misericordia. Per cui il modo con cui Dio ha di conoscere, di potere, di volere, di esercitare la sua libertà, è un modo che deve essere continuamente messo in relazione con questa prospettiva fondamentale dell'agape. E quindi non è una conoscenza generica quella di Dio, è una conoscenza nell'agape, è un potere nell'agape, è un volere nell'agape, è una libertà nell'agape. Ecco, questo è il lavoro da fare da parte di una teologia effettivamente cristiana. Se vogliamo appunto rimanere fedeli al modo con cui Gesù ci fa fare esperienza di Dio, della realtà di Dio. E devo dire che non ci sono, dal punto di vista della riflessione teologica più strutturata, ecco, non ci sono tanti esempi di un ripensamento davvero conseguente della realtà di Dio in questa prospettiva dell'agape. A me ad esempio vengono in mente due nomi dal punto di vista della tradizione cattolica. Uno è quello di von Balthasar, questo teologo svizzero, appunto, che ha contribuito anche al Concilio Vaticano II insieme a Rahner. No? E l'altro nome più vicino a noi è quello di Verbeek, di Jürgen Verbeek, che citavo prima, no? O in Italia anche un autore come Pierangelo Sequeri. Ecco. Per cui, come dire, non ci sono grossi o numerosi contributi di un tentativo davvero, come dire, coerente, sistematico di ripensamento, nel senso che dicevo prima. Però, alcuni riferimenti importanti noi li abbiamo, ecco, quindi dal punto di vista della riflessione cattolica dovremmo saper anche attingere a quelle fonti che questo lavoro hanno cercato di farlo, stanno cercando di farlo, poi diciamo teologi di seconda fila come posso essere io, no? Cerchiamo di andare dietro, ecco, quindi nel nostro lavoro di ricerca e di insegnamento teologico cerchiamo di muoverci in questa direzione, no? E quindi su questo aspetto, no, della questione del teismo, direi così. L'altro aspetto è la questione dell'istituzione, che riprende anche il secondo intervento. E è chiaro che l'istituzione, anche da un punto di vista semplicemente dell'esperienza umana, è una realtà ambivalente. Perché per un certo verso l'istituzione svolge il prezioso servizio di spingerti a confrontarti con una oggettività. Infatti molti filosofi parlano dell'istituzione usando il termine di terzo, no? Di terzietà. No? L'istituzione rappresenta una terzietà, un terzo. Quindi non sono io, non sono semplicemente io, non sei semplicemente tu, non è semplicemente il nostro rapporto io-tu, ma c'è un terzo con cui io mi posso confrontare, no? Che in qualche modo mi apre ad un accesso alla realtà che non si risolve semplicemente con ciò che io immagino e tu immagini. Ecco. Quindi l'istituzione è questo terzo che ci spinge a superare la soglia della pura soggettività, no, che poi può diventare soggettivismo, e a misurarmi con qualcosa di oggettivo, ecco, con qualcosa che in qualche modo mi sta di fronte. Il rischio dell'istituzione è quello di scadere nell'oggettivismo, cioè quando l'istituzione diventa così spessa, no, da non essere più trasparente nei confronti di questa realtà a cui dovrebbe rimandare. Questo ne facciamo esperienza a livello, diciamo così, umano, ordinario, ad esempio nella questione della politica. L'istituzione della politica dovrebbe rimandare al bene comune, ma a volte questa istituzione diventa così spessa, così poco trasparente, appunto da scadere in un oggettivismo che non fa più nessun servizio, anzi diventa addirittura un problema da risolvere. Ecco, la stessa cosa si può dire e si deve dire anche a fronte della storia dell'istituzione ecclesiale. L'istituzione ecclesiale è questo terzo appunto mi spinge a confrontarmi con una realtà che non si risolve semplicemente in ciò che penso o immagino io, in ciò che pensi immagini tu. Quindi mi introduce una misura di oggettività nella mia esperienza di fede che certamente mi coinvolge sempre in prima persona. Ecco. Quindi la prospettiva della prima persona è una prospettiva che non si può mai scavalcare nel discorso della fede, no? Perché se scavalco la prospettiva in prima persona perdo il carattere relazionale del mio rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo. E tuttavia, ecco, questo discorso in prima persona poi anche in questo caso è chiamato a misurarsi sulla terza persona, cioè su qualcosa di oggettivo. Io, parlando stamattina di istituzione ecclesiale, facevo riferimento alla scrittura, anzitutto, facevo riferimento alla liturgia e in particolare ai sacramenti, facevo riferimento anche alla questione del ministero, no? Quindi anche del ministero ordinato, ma facevo riferimento anche all'esperienza comunitaria in quanto tale, perché il noi è qualcosa sempre appunto di più ampio e di più largo del semplice rapporto io-tu. Quindi il riferimento, stamattina appunto parlavo usando quella frase, come dire, con molte sfumature, ecco, parlavo di una inevitabilità, di una qualche forma di riferimento all'istituzione ecclesiale, per dire che la questione del terzo o dell'oggettività è comunque inevitabile. Non la si può evitare se non voglio far scadere la mia esperienza di Dio appunto in un interiorismo assoluto o in un individualismo assoluto, che non è neppure una mistica, perché in realtà i grandi mistici non smettono di rapportarsi all'istituzione ecclesiale, casomai la provocano, no? Con la loro profezia mistica, ma non è che la mettono da parte. Teresa d'Avila e Giovanni della Croce sono riformatori dell'istituzione ecclesiale, oltre ad essere grandi mistici, anzi forse sono grandi mistici proprio perché hanno come finalità quella di una riforma dell'istituzione ecclesiale, una riforma che permette all'istituzione ecclesiale di perdere il suo ispessimento e di tornare trasparente nei confronti della realtà a cui dovrebbe rimandare. Quindi non si tratta, come dicevo stamattina, tanto di contrapporre carisma, istituzione, profezia, istituzione. Si tratta di fare in modo che l'istituzione svolga davvero il suo servizio. Questo servizio di terzietà che mi rimanda appunto ad una realtà che mi supera. E quando appunto si parla di riforma ecclesiale, quando anche Papa Francesco continuamente si riferisce alla necessità, ecco, di una Chiesa in uscita, ecco, la Chiesa in uscita ha a che fare proprio con questo discorso, cioè una Chiesa che esca fuori da un modo di intendere l'istituzionalità, come dire, che scade nell'oggettivismo, cioè che scade in una non trasparenza, in un'autoreferenzialità, ecco. La Chiesa in uscita è una Chiesa non autoreferenziale, è una Chiesa che fa questo suo servizio di testimonianza, no, ad una realtà che appunto supera l'io e il tu e in qualche modo rimanda ad un noi più largo, più vasto. Ora, concludo, il riferimento allo spirito, ma già al tempo dei profeti del Primo Testamento, è un riferimento che molto spesso viene tirato in ballo proprio su questa questione. Cioè, lo spirito è appunto quel fuoco, no? quella potenza che continuamente stimola sia, come dire, la singola persona, ma anche l'istituzione o la comunità, ecco, la stimola a ritrovare la sua trasparenza, la stimola appunto a superare quelle opacità che non permettono all'istituzione di fare il suo servizio testimoniale. Pensiamo appunto alle invettive dei profeti nei confronti di un certo tipo di culto, no? Che diventa addirittura qualcosa che ti allontana da Dio, anziché servire alla tua relazione con Dio. Pensiamo alle invettive profetiche nei confronti di quello che noi oggi chiameremo il clericalismo, riferito ai sacerdoti di allora, ma che può essere riferito anche in qualche maniera, in qualche misura, ai ministri ordinati di oggi, no? Il clericalismo non è un modo di vivere il ministro ordinato che diventa completamente autoreferenziale, cioè che perde questo suo compito di essere servizio di una relazione con una realtà che ci supera tutti, no? E così via. Poi certamente in Gesù troviamo questo tipo di attenzione espressa in maniera molto, molto forte, molto intensa, no? E anche molto radicale. la questione, ad esempio, della cacciata dei venditori dal Tempio è uno degli episodi in cui, in maniera più forte, come dire, nella vicenda di Gesù emerge questa provocazione all'istituzione, che cosa c'era di più alto dell'istituzione del Tempio di Gerusalemme, di provocazione all'istituzione di ritrovare la sua qualità propriamente testimoniale e di servizio. Prego. Niente, io volevo solo chiedere, quando invochiamo lo Spirito Santo, e succede spesso anche nelle liturgie, anche nei canti che si intonano in chiesa, quando io dico vieni Spirito Santo, in qualche modo a cosa devo pensare? Devo pensare che io sto chiedendo la capacità di comportarmi alla maniera di Gesù? Adesso lo dico così, perché a me succede spesso, molto spesso, che quando percepisco in un mio comportamento qualcosa che non va d'accordo con il comportamento di Gesù, cioè so benissimo che se mi comporto così, se ti do una rispostaccia o anche qualcosa di peggio, ti offendo o non so cosa, comunque io so benissimo che non dovrei comportarmi così se voglio essere cristiano. Nello stesso tempo, per come sono fatta io, per la mia indole, per la mia arrabbiatura, per non so cosa, e allora a me succede, quando percepisco questa situazione in me, di invocare lo Spirito Santo. Io lo invoco proprio con la fiducia di ricevere questa forza che mi fa contrastare alla mia indole, diciamo così, cioè al mio comportarmi in modo non cristiano. E ho già sperimentato tante volte che funziona, cioè in pratica è come se io ricevessi una forza che non viene sicuramente da me, ma che mi dà la capacità di comportarmi in modo diverso. Allora volevo solo sapere se è un modo di vedere o di pensare corretto, o se, che ne so, è qualcosa che così mi sono un po' inventata io. Come direbbe Gesù, non sei lontana dal regno di Dio. Un po' pretenziosa, ecco, come risposta. No, a parte la battuta, ma il tema dello Spirito Santo è effettivamente, anche proprio in riferimento alle metafore con cui nella scrittura si parla dello spirito, lo dicevo già l'anno scorso quando parlavo dell'escatologia, appunto della riflessione sul compimento, l'escatologia dell'escatologia possiamo parlare solo in modo metaforico, non c'è nessun discorso diretto che possiamo fare, ma questo vale più in generale per tutta la questione che riguarda la realtà di Dio e del nostro rapporto con Dio. Dio non è questa bottiglia di cui io posso parlare perché, come dire, la prendo in mano e ne dispongo. Ecco. Dio è una realtà trascendente, quindi è una realtà che eccede la portata della mia esperienza e della mia conoscenza. Questo non vuol dire che sfugge completamente alla mia conoscenza e alla mia esperienza. E quindi mettere insieme questi due aspetti di trascendenza e di immanenza è il lavoro delle metafore, che non sono appunto fantasticazioni, ma sono il modo di portare a parola la complessità di un riferimento ad una realtà che mi trascende, ma che nello stesso tempo è anche più intima di me stesso, no? Come direbbe Agostino. No? Allora, anche dello Spirito Santo si usano molte metafore, no? Quella del fuoco, quella della colomba, eccetera, quella della luce. Sono tutte metafore che rimandano ad una dimensione di forza. Una forza che ha sempre una funzione, come dire, di generazione, di rigenerazione, di plasmazione, di trasformazione. In vista della possibilità di fare sempre più nostra la forma della vita di Gesù. Se dovessi in qualche modo sintetizzare l'azione dello Spirito Santo, la direi in questo modo. Appunto, lo Spirito Santo è l'origine divina di quella forza che mi permette di fare sempre più mia la forma della vita di Gesù Cristo. Ecco perché, come diceva giustamente il patriarca Ignazio Sazim, che citavo questa mattina, senza lo Spirito Santo l'etica diventa un moralismo. Perché senza lo Spirito Santo la nostra ricerca di corrispondere all'immagine di Gesù, alla forma della vita di Gesù, diventa qualcosa di volontaristico, di semplicemente volontaristico. Cioè, come se Gesù fosse soltanto un modello, un esempio, a cui io sono chiamato ad avvicinarmi attraverso lo sforzo della mia volontà. E questo però non è qualcosa di molto distante dall'esperienza cristiana, perché l'esperienza cristiana ti dice che Gesù non solo ti offre la forma di una vita che sia appunto corrispondente all'intenzione di Dio, come quella di Gesù, ma ti mette a disposizione anche la forza per poter corrispondere a quella forma. E solo a queste condizioni non è qualcosa di moralistico. E perché la nostra predicazione è stata molto spesso moralistica? Perché era una predicazione tutta incentrata sul tu devi. E dovete essere più buoni, e dovete amare, e dovete perdonare, e dovete essere misericordiosi. È altro che togliere i pesi dalla coscienza delle persone. È una predicazione che mette macigni, come dire, continui sulle spalle delle persone, perché è la predicazione del tu devi, del moralismo, che ripeto non ha a che fare per nulla con l'esperienza cristiana, perché l'esperienza cristiana ha sempre il primato del dono, cioè non c'è mai un compito. Nell'esperienza cristiana c'è anche una dimensione di compito, cioè, la nostra libertà è sollecitata a rispondere, a corrispondere, non siamo semplicemente passivi. Ecco, anche qui certi percorsi del posteismo che pensano l'esperienza di Dio in una maniera puramente passiva, no? Un lasciarsi andare, un lasciarsi trascinare. No, il Dio di Gesù Cristo non ci lascia semplicemente andare, ci provoca, ci chiede di prendere una decisione, ci chiede di disporre di noi stessi, ma ce lo chiede solo dopo essersi donato a noi. Ce lo chiede soltanto dopo averci raggiunto e dopo averci dato la possibilità di sentire la sua presenza che ci accompagna nel nostro cammino. Ecco, questa presenza che ci accompagna nel cammino ha a che fare con l'esperienza cristiana dello spirito, del pneuma. Per cui in questo senso mi pare che ciò che dicevi... Adriana, hai questo testo che ti ho... No, non l'ho ancora preso. Allora, tu leggi il numero 2. Vedi? C'è già tutto scritto. Tra Duilio e Papa Francesco c'è perfettamente sintonia. Sintonia. Lascialo leggere un momentino. No, ma come leggi. Devo mettermi gli occhiali. Siamo come due piselli in un bacello, diceva Staglioni. Mettiti gli occhiali. Forte e chiaro. Forse, ma vuoi che lo lega forte? Sì, certo. Il numero due. Il numero due. Sì. Ne hai ancora, Andrea, di quei foglietti? Sì, là. Allora, lo Spirito Santo fa vivere e rivivere Gesù in noi. Lo Spirito Santo ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. Con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo interpretare le ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita alla luce delle parole di Gesù. Omelia dell'8 giugno. No, lascia perdere le citazioni. Non serve sapere che Gesù risorto è vivo se non si vive da risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi. Senza lo Spirito Gesù rimane un personaggio del passato. Con lo Spirito è persona viva oggi. Senza lo Spirito la scrittura è lettera morta. Con lo Spirito è parola di vita. Grazie allo Spirito Santo, ogni momento della vita terrena di Gesù può diventare, attraverso la grazia della preghiera, a noi contemporaneo. E grazie allo Spirito Santo anche noi siamo presenti presso il fiume Giordano, quando Gesù vi si immerge per ricevere il battesimo. Anche noi siamo commensali alle nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per la felicità degli sposi. Anche noi assistiamo stupiti alle 1000 guarigioni compiute dal Maestro. Anche noi siamo come il lebbroso purificato, il cieco Bartimeo che riacquista la vista, Lazzaro che esce dal sepolcro. Beh, uno bravo questo, no? È uno bravo. Quando nella prima parte della sua relazione parlava appunto di sovrapposizione, sostituzione dello Spirito alla grazia, a un certo punto ha detto di corsa che rispetto a questo pensiero, questo ruolo della grazia, così come era successo con la figura di Maria, prima del Vaticano II, prevedeva comunque delle eccezioni. Mi sono chiesta quali potevano essere, cosa poteva esserci stato già di cambiamento, di intendere la grazia in un altro modo. Sì, no, nel senso che appunto il Vaticano II ovviamente non nasce come un fungo dal nulla. Il Vaticano II si radica in particolare in quei tre movimenti a cui accennavo stamattina, il movimento patristico, da cui scaturisce il movimento biblico, da cui scaturisce il movimento liturgico. Sono dinamiche che nella Chiesa Cattolica si sono andate formando sostanzialmente a partire dagli anni 20 e 30 del Novecento. Erano minoranza, quindi. Certo, nascono appunto come un'alternativa alla teologia ufficiale, e però prendono appunto sempre più piede. Può fare qualche esempio concreto? Ma sì, io penso, non so, ad esempio alle grandi scuole, soprattutto francesi, dei domenicani e dei gesuiti, no? Quindi ad esempio un personaggio come il domenicano Chenu, oppure all'interno dei gesuiti come Henri de Lubac, no? Sono autori in cui noi appunto nei loro scritti degli anni 30, 40 ritroviamo già molte delle acquisizioni che poi saranno offerte alla coscienza, diciamo, della Chiesa universale dal Concilio Vaticano II. Per cui, ecco, come dire, evidentemente nulla nasce mai semplicemente dal nulla. Ecco. C'è una preparazione che rende possibile poi una maturazione come quella che è avvenuta nel Concilio Vaticano II. E Teilhard de Chardin come lo sistemiamo? come dire, non, dovrei avere molto più tempo per rispondere a questa domanda. Per certi versi è uno dei pionieri di questo ripensamento del teismo convenzionale, attraverso un dialogo finalmente serio con le scienze, no, con le scienze contemporanee. Il tentativo di Théa de Chardin, almeno non solo dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di un dibattito teologico che appunto è stato portato avanti, ha anche, come dire, dei limiti, no? Uno dei limiti più vistosi è ad esempio il fatto che in Théa de Chardin la questione del male viene tendenzialmente rimossa. Cioè, come dire, c'è una visione molto ottimistica della realtà in Théa de Chardin che però rischia anche di essere eccessivamente ottimistica, no? Cioè, di pensare ad un universo che è già risorto, quando però ancora nella storia noi dobbiamo fare i conti seriamente con ciò che è male, con ciò che appunto contrasta con la positività dell'esistere. Ecco, però certamente è una delle grandi figure del Novecento, su questo non c'è dubbio. Vi rimando, abbiamo trovato nell'archivio di Don Giorgis uno scritto che aveva preparato in vista di un viaggio in Terra Santa e aveva citato una pagina di Théard de Chardin, una pagina che risale al 1933, di un'attualità sorprendente per quanto riguarda le problematiche che oggi abbiamo all'interno della Chiesa. L'abbiamo riportata nell'opuscoletto che abbiamo preparato per l'Eucaristia, in seconda pagina. Ci ha veramente impressionato. Cioè, nel 1933 diceva esattamente le stesse cose che dice Papa Francesco adesso, quando parla di non cambiamento di epoca, ma epoca... Non epoca di cambiamento, ma cambiamento di... Ecco. Perché aveva avuto parecchie difficoltà con la Chiesa. Sì, beh, era avuto anche delle intuizioni. Non certo. Da parte sua, ma da parte della Chiesa verso di lui. Ma anche tutti... anche gli autori che citavo prima, Chenut e Lubac. Mi dispiace interrompere questa cosa, anche io avrei stavo pensando, butto solo lì, ma per dire che si potrebbe andare avanti. Stavo pensando mentre tu parlavi, soprattutto le ultime cose che hai detto mi hanno intrigato molto. Stavo pensando, proviamo a fare un giochetto, escludiamo lo Spirito Santo, ci rimane solo nella Trinità, così secondo la tradizione cattolica, e vediamo come ce la giochiamo. E secondo me ci manca qualcosa, probabilmente scopriamo qualcosa della sua importanza provando a far finta che non ci sia, insomma, cercando di immaginare che non ci sia. E a proposito di questo, io voglio dire una mia piccola eresia, non lo so, però mi piace questa storia dell'istituzione che ti permette di confrontarti, perché sennò uno parte per la tangente, va per i fatti suoi, come tu dicevi, magari no, poi magari invece confrontandoci, no, effettivamente sono in pista, insomma, no? Non sei lontano. No, io stavo pensando fra me e me, come vabbè, mia piccola eresia, che forse noi diciamo eredità, Trinità, ci siamo messi in testa di capire come è fatto Dio. Se lo immaginiamo così, forse, idea mia, non è esattamente come dobbiamo, perché in realtà Dio ci ha detto di neanche nominarlo, figurati, pretendere di sapere fatto così e fatto cos'ha, eccetera, no? Forse Trinità riguarda più noi, cioè il nostro, noi abbiamo tre modi con cui possiamo cercare di guardare a Dio, lo possiamo guardare nella tradizione cattolica come padre e ci dice, e questo ci dice delle cose, questo lo possiamo guardare come in Gesù, come io lo chiamo, traduzione in umanese di Dio nel nostro linguaggio, quello che noi possiamo, perché abbiamo bisogno di vedere qualcosa, non possiamo vedere il padre, ma però possiamo vedere Gesù e ci possiamo fare un'idea tradotto nel nostro linguaggio, nella nostra forma, in una creatura umana come noi qualcosa che ci dice chi è Dio. E possiamo relazionarci come spirito, e allora in questo modo, che non è padre, che sembra un po' lontano, non è esattamente figlio, che comunque è persino troppo, ma spirito è qualcosa che ci attraversa, no? che ci tocca più, che ci viene proprio dentro, insomma, no? In qualche modo. E questo è un altro modo, e di queste, giocando su queste tre note, viene fuori una musica che forse ci fa intuire qualcosa di questa presenza, che non, se no non potremmo sognarci, insomma, che è quello che chiamiamo Dio. Perché poi appunto la rilettura del teismo ha poi ancora un ulteriore aspetto, che è la rilettura del teismo trinitario, e qui si aprirebbero appunto universi che non abbiamo più tempo di esplorare. Comunque, mi dispiace che finiamo qui il nostro percorso, però ci portiamo dietro ancora tante domande, perché giustamente le domande non passano mai. Qualche ideuzza, credo di sì. Ricordo che i prossimi due appuntamenti sono il 2 ottobre a Villarbasse con Roberto Repoli e il 18 ottobre, questa era la data, domenica 18 ottobre, per l'assemblea della tenda, a cui siamo tutti veramente invitati, perché è il momento non solo di ripensamento, ma di ispirati magari dallo spirito di avere qualche idea per il futuro. E poi giustamente noi ci facciamo aiutare da persone brave come Duilio, e ancora oggi ci diceva che hanno molti impegni, quindi noi dobbiamo contattarli qualche mese prima. Lui ormai sa già che la prima domenica di agosto è comandato. Sono poche le certezze, ma però questa è una di quelle. Gli altri sì. Granitica. Grazie Duilio. Grazie, buon dietro, buon di lì. Scusate, fate girare questo. No, non è fatto girare.